in primo piano. Posto fisso, flessibilità, giorno secondo. Oggi tutti i giornali davvero aprono su questo tema. Dopo le polemiche, dopo la frase del ministro Tremonti, l'elogio del posto fisso, ieri la replica di Confindustria e dunque una breve carrellata dei titoli dei giornali. Il Sole 24 Ore, Marcegaglia, superato il posto fisso, serve la flessibilità regolata. Posto fisso Berlusconi con Tremonti, il Corriere della Sera. Posto fisso no di Confindustria, secondo Repubblica. Il posto fisso è un valore, Berlusconi con Tremonti, così titola La Stampa. Posto fisso, duello industriali-governo, è il titolo del Messaggero. Poi ne vedremo altri man mano che leggeremo i vari commenti, i numerosi commenti. Voglio partire proprio dal Sole 24 Ore. Come avete sentito, Confindustria è intervenuta per bocca del presidente Marcegaglia. No a ritorni al passato, si legge a pagina 3. Più del posto fisso serve flessibilità regolata, dice Emma Marcegaglia. Berlusconi d'accordo con Tremonti. C'è anche un interessante articolo di Giorgio Pogliotti. Lavoro flessibile a quota 13% in linea con l'Unione Europea. Oscilla proprio attorno a questa cifra, il 13% lo stock di lavoratori italiani con contratti flessibili, a cui si aggiungono le collaborazioni a progetto stimate tra le 370.000 e le 800.000, una media in linea con quella dei paesi dell'Europa a 15, dove si attesta attorno al 14%, dunque un punto percentuale in più. Ma iniziando dai numeri, dice Pogliotti, appunto tra i 23 milioni di occupati in Italia, circa 2,2 milioni hanno contratti a termine, questo secondo l'Istat. Mentre, sempre per quel che riguarda i numeri, la platea di atipici è un universo molto eterogeneo che l'IRES CGL ha quantificato in 3,6 milioni. Insomma, queste le cifre, ma numerosi commenti, le interviste. Per esempio, il Corriere della Sera intervista Pier Carniti, ex leader della CISL, Sergio Rizzo lo intervista e dice Pier Carniti: certo che ha ragione Tremonti a parlarne, purtroppo per molti però il posto fisso è a casa. Ma poi Pier Carniti attacca e dice: la battuta di Tremonti è apprezzabile, la situazione però con la crisi è anche peggiorata. Non sappiamo con quanti morti e feriti usciremo dalla crisi, vogliamo almeno fare gli ospedali da campo? Insomma, alla domanda, ma la vede davvero così nera lei, Pier Carniti? Beh, una visione oggettiva, non è stato proposto alcun rimedio che possa contribuire a creare speranze per il futuro, soprattutto per i giovani, a parte questa sortita del ministro Tremonti sul posto fisso che non sposta di un millimetro i termini del problema. Beh, nemmeno di un millimetro, nemmeno di un millimetro, ribadisce Carniti. Si fa retorica del lavoro stabile e lo sa quanti differenti tipi di rapporti di lavoro ci sono in Italia? 32, una follia che non serve a nessuno. Ma come detto sono tanti commenti. In prima pagina del Sole 24 Ore Franco Locatelli, che in realtà mette insieme i due interventi di Emma Marcegaglia, non solo quello su un posto fisso, mobilità, ma anche la pressione nei confronti del governo perché sostenga il Made in Italy a livello europeo. Questa è una priorità per il presidente di Confindustria. Ebbene, Franco Locatelli nel commento dal titolo "Il passato non ritorna, il futuro è di chi innova" scrive: né assistenzialismo né protezionismo. No, la modernizzazione del sistema Italia non passa da qui, ma impone un paradigma più audace che è fatto di quattro diversi pilastri: il mercato, le regole, l'Europa, la coesione sociale. Dopo anni di sbornie finanziarie, la crisi sta rivalutando giorno dopo giorno il ritorno all'economia reale, fa riscoprire l'importanza dell'industria manifatturiera. Sembrano questioni lontanissime, ma c'è un evidente filo rosso tra il rifiuto del presidente di Confindustria Emma Marcegaglia di tornare al passato con la cultura del posto fisso e il suo impegno a difendere il Made in Italy non fuori o contro l'Europa, ma al contrario chiamando a raccolta tutte le energie del paese per conquistare la definitiva approvazione del regolamento europeo sull'obbligo di etichettare i prodotti importati dai paesi terzi. Dunque questo insomma il doppio filone di intervento su cui si concentra Locatelli. Anche il Corriere in prima pagina fa un intervento di editoriale di Dario Di Vico. Il titolo è "Agenda fuori tempo", scrive Di Vico a scanso di equivoci, va detto subito, ne avremmo volentieri fatto a meno. di questa animata discussione che nelle ultime 48 ore si è aperta sugli innegabili vantaggi del posto fisso e che ha coinvolto il capo, i ministri del governo di centrodestra, i principali esponenti dell'opposizione, i leader dell'organizzazione di rappresentanza, un intervento che appare fuori tempo rispetto alla lenta evoluzione della crisi. E poi Di Vico ancora si concentra nel suo editoriale su invece l'importanza dei piccoli artigiani, dei piccoli imprenditori, degli artigiani. C'è qualche ministro disposto a dir loro la verità e invitarli a rinunciare all'atavico individualismo e aggregarsi piuttosto che morire? Per esempio, si chiede Dario Di Vico, cioè, come dire, un'agenda e un intervento sbilanciato, secondo lui. Vi segnalo che è pieno di retroscena, però, un po' ovunque, dopo la sortita del ministro Tremonti e le repliche, su quello che è il rapporto tra Tremonti e Berlusconi e altri ministri. Perché Berlusconi, come detto ieri, ha espresso solidarietà a Tremonti, ma per esempio Giulio minaccia le dimissioni, se non mi difendi me ne vado. È un retroscena di Claudio Tito su Repubblica in prima pagina: o blocchi subito le polemiche oppure io non posso più stare qui. Di buon mattino Giulio Tremonti aveva letto ieri la prima pagina di Libero, aveva capito qualcosa stava accadendo e allora ecco ha minacciato, secondo Claudio Tito, a chiare lettere le dimissioni. I rapporti tra i due, Berlusconi e Tremonti, del resto sono ormai quelli di due separati in casa. Ed ecco allora, secondo Tito, che Berlusconi in qualche modo si è sentito in dovere, obbligato a questa presa di posizione, a dire io la penso come Tremonti. E guardate che non è solo Repubblica, perché se sfogliamo per esempio anche gli altri giornali, guardate, è proprio Libero. Libero, il titolo di prima pagina: il posto di Tremonti non è più al sicuro. Dice Giulio Tremonti nell'editoriale di Mario Sechi: ho detto che preferisco il lavoro fisso, mi sembrava una cosa scontata, una cosa perfino banale, se a pronunciarla non fosse il ministro dell'economia del governo che ha fatto di Marco Biagi una bandiera. Detto questo, scrive Mario Sechi, che è il vice direttore di Libero, la notizia è un'altra, è il posto di Tremonti a non essere più sicuro. Cosa è cambiato nel governo? Cosa sta succedendo nel Popolo della Libertà? Quali sono le correnti di pensiero sui temi economici? E all'interno, insomma, si analizza come mai la politica del governo sarebbe un po', sul fronte dell'economia, in rotta con il ministro dell'economia. Non ne avete abbastanza? Il Foglio: così i capigruppo del Popolo della Libertà si preparano a contenere l'esondante Tremonti. È un lungo fondo in prima pagina. Berlusconi lo blandisce, ma contro il super ministro dell'economia si è condensata una potente lobby parlamentare di governo che sembra puntare al suo commissariamento. Visto l'attacco concentrico che Berlusconi sta subendo ormai da troppo tempo, è necessario individuare entro 5, massimo 6 mesi, delle norme di vasto consenso sociale attraverso le quali rispondere alle esigenze dei cittadini e degli industriali. Che tipo di interventi sono allo studio? Secondo il Foglio sono più risorse per gli ammortizzatori sociali, introduzione del principio di universalità dell'indennità di disoccupazione, defiscalizzazione del lavoro subordinato e nuove risorse per il Ministero degli Interni e della Polizia. Come trovare i soldi? Ieri pomeriggio, scrive il Foglio, in transatlantico, Brunetta ha parlato a lungo col capogruppo alla Camera Cicchitto, elencandogli una serie di iniziative. È necessario ingegnarsi e mettere mano al portafogli, con o senza Tremonti. E dunque sono diversi retroscena i commenti, non solo sulla frase di Tremonti, ma anche su quello che bollerebbe in pentola, si potrebbe dire, all'interno del governo, nei rapporti anche personali tra il ministro dell'economia, i rapporti politici e gli altri colleghi di governo. Voglio lasciare questo tema, che comunque trovate abbondantemente trattato sui giornali, e venire a tutta la vicenda del conflitto politico, istituzionale. La giustizia è ancora in primo piano. Mesiano è il giudice di cui ci occupiamo noi, è diventato il giudice civile più famoso d'Italia, insomma più celebre d'Italia, dopo la sentenza che ha condannato la Fininvest a favore di De Benedetti, il video di Canale 5 che l'ha un po' seguito, i calzini turchesi che sono diventati per qualcuno, per esempio per il fatto oggi a pagina, le due pagine centrali, ha lanciato questa iniziativa, i lettori che si mettono tutti con le calze turchesi, mandano le foto e il Fatto le pubblica tutti in turchese, il Fatto si mette i calzini, anche i titoli sono in color turchese, insomma questa iniziativa di solidarietà. A Mesiano il CSM vota la tutela, auto di servizio per proteggerlo. Questo leggete su Repubblica. È il tema del nostro sondaggio, ve lo ricordiamo. Dovete votare su radio24.it. In prima pagina, nella home page, trovate in basso a destra bianco o nero. La domanda è questa: insomma, il CSM ha votato una tutela, una pratica di tutela per le parole di Berlusconi, che ha definito in maniera molto dura la sentenza del giudice Mesiano. Voi che ne pensate? Insomma, siete d'accordo con questa tutela oppure pensate, per esempio, che sia una difesa di casta? Impediamo ai magistrati di giudicarsi tra di loro. Un'intervista all'ex ministro della giustizia Roberto Castelli campeggia su Libero sotto la fascetta toghe intoccabili. D'altronde Libero ha iniziato una campagna per raccogliere firme per la responsabilità civile nei confronti dei giudici qualora sbaglino. E ci sono anche ampi stralci pubblicati da Libero di, per esempio, un nuovo libro, un libro Toghe che sbagliano, poche condanne, troppo lievi, c'è una casta che è sopra la legge. Insomma, da una parte un giornale come Libero attacca molto duramente, dall'altra parte l'Unità, il CSM apre una pratica tutela di Mesiano, e poi c'è un'intervista a Giuliano Amato, che oggi è un po' fuori dai giochi politici, nel senso che è presidente della Treccani, ma insomma è un uomo politico a tutto tondo da sempre, e fa un'intervista a Stefano Miliani in cui tra l'altro dice, riguarda quel video ormai famoso mandato in onda su Canale 5 in cui si segue per le strade di Milano il giudice Mesiano, non è una limitazione della libertà di pensiero ma è un uso intimidatorio dei mezzi di informazione verso terzi. Che il direttore di Canale 5 abbia chiesto scusa, beh, non è proprio il direttore ma insomma Bracchino di Video News, dimostra però che c'è ancora democrazia, non ho mai parlato di regime, dice Giuliano Amato. E beh, insomma, questi tanti temi che trovate sui giornali, ce ne sono ovviamente parecchi, ripartiamo dalla politica, ma non solo, da altre cose molto interessanti, subito dopo le informazioni sul traffico. In primo piano. La politica è molto concentrata sulle nomine per le regionali della prossima primavera. Ci sono i partiti che ovviamente stanno discutendo chi candidare. Beh, in Veneto c'è una grande partita che coinvolge, insomma, Galan, l'attuale presidente, e la Lega, che vorrebbe essere insomma, la forza politica che esprima il candidato del Veneto. Galan: io non accetto Baratti, il Veneto vuole ancora me. Un'intervista a Repubblica. Un errore non candidarmi, la partita non è chiusa, sarebbe un grave errore politico, dice in questa intervista Roberto Bianchin Galan. Il Veneto esige rispetto, la partita è aperta, mi ha detto ancora Berlusconi, non solo per il Veneto, per le altre regioni italiane. E ancora, ma non sente la situazione di uno che è stato scaricato? Assolutamente no, dice Galan. E se la manderanno a casa che farà? Ancora non lo so, potrei fare anche valutazioni politiche diverse, ma non lascerò mai Berlusconi. Gli devo tutto, non lo abbandonerò mai. L'altro grande tema è quello della campagna, dove sapete il PD ha gravi problemi, questo a detta del commissario in campagna Morando. Ieri ha detto: abbiamo effettivamente problemi in alcune zone di infiltrazione della criminalità organizzata. Dall'altra parte il PDL ha problemi sulla nomina, discussioni di Cosentino, sottosegretario all'economia, che secondo alcuni giornali è stato tirato in ballo da alcuni pentiti dei casalesi. Il sottosegretario inquisito, io l'uomo giusto, così al Corriere della Sera, Cosentino, contro di me il clan dei perdenti. E tra l'altro su questa parola clan si concentra l'articolo di Fulvio Buffi. Insomma, inizia così: se Nicola Cosentino avesse un consulente per la comunicazione gli renderebbe la vita un inferno, e quello forse si dimetterebbe sentendolo commentare così l'ostracismo che qualcuno all'interno del PDL gli sta facendo. Contro di me il clan dei perdenti. D'accordo che in politica gli schieramenti e le correnti spesso vengono definiti clan, ma uno che è sotto inchiesta con l'accusa di essere il referente politico istituzionale dei casalesi, la cosca più potente della camorra, quella parola dovrebbe proprio evitarla, scrive Fulvio Buffi. Lasciamo la politica e troverete un altro tema molto interessante su tutti i giornali. Per la prima volta la Chiesa apre ai sacerdoti sposati. Attenzione, non è un cambio di rotta da parte del Vaticano. Il Vaticano che annuncia un nuovo documento, questo titolo l'ho letto dal giornale, norme speciali per vescovi, preti e fedeli decisi a lasciare la Chiesa inglese dopo le sue svolte liberal. Ed è proprio un provvedimento riguardante la Chiesa anglicana, cioè lo trovate ben spiegato sul Sole 24 Ore da Carlo Marroni. Il Papa apre agli anglicani delusi. Che succede? La Chiesa cattolica allarga la sua sfera di influenza in Occidente e riporta sotto la guida della cattedra di Pietro una discreta fetta di tradizionalisti. Infatti, scrive Marroni, il Papa sta per approvare una costituzione apostolica, un atto giuridico del diritto canonico, che predispone l'accoglienza di fedeli, sacerdoti e vescovi anglicani che hanno deciso di abbandonare la comunione anglicana per convertirsi al cattolicesimo, un po' come ha fatto l'ex premier britannico Tony Blair. Questo permetterà l'ingresso nella Chiesa cattolica di preti sposati, che abbandonano ovviamente la Chiesa anglicana. Anche se non è una novità assoluta, dice Marroni, perché anche le chiese orientali unite a Roma vedono sacerdoti con moglie e figli. E in ogni caso, ecco qui il punto centrale, l'atto non apre al matrimonio dei preti, tema sul quale la Chiesa non ha la benché minima intenzione di fare aperture. Questo è il punto interessante, cioè si apre agli anglicani delusi che possono entrare nella Chiesa nel Vaticano, sotto il Vaticano, e quindi anche quelli sposati, preti sposati, ma questo non vuol dire che si apra ai preti sposati in generale, tout court, come scrive molto bene Carlo Marroni. E tra l'altro c'è un'intervista proprio sul Sole, sempre dello stesso Marroni, a Vittorio Messori, che dice proprio a questa domanda: rientro dei preti sposati creerà problemi all'interno della Chiesa? Assolutamente no, dice Messori, ci sono già sacerdoti con famiglie nelle chiese orientali, il problema potrebbe riguardare forse i vescovi, ma come è stato detto saranno riportati allo stato sacerdotale, dunque non ci saranno questo tipo di problemi. Per le segnalazioni conclusive voglio segnalare questo, insomma speriamo che ce lo risparmino, ma ormai il livello della TV è tale che ho dei dubbi. Graziano Mesina all'Isola dei Famosi. Graziano Mesina di Orgosolo, leggenda del banditismo sardo, 40 anni in carcere, poi graziato nel 2004 da Ciampi, autore di diversi sequestri, potrebbe andare all'Isola dei Famosi. Ovviamente ora si smentisce, si dice ma non c'è nulla di certo. Reality Shock titola il quotidiano nazionale, che è l'unico giornale che intervista Graziano Mesina. Lei che dice, Mesina? Non avrei alcun problema a mettermi in viaggio, dice. Però non so nulla, nessuno mi ha contattato, però poi fa il vago, dice a me piace forse andare a caccia di coccodrilli, ma che vuol dire? Quello che ho detto, nulla di più, nessuno mi ha contattato, ma se mi chiamano vediamo, certo le voci le ho sentite anch'io. Insomma, insorgono le associazioni di persone ex sequestrate, e tra l'altro anche il Riformista dedica un commento in prima pagina: ancora un'isola per Grazianeddu, ipotesi Ventura, ancora un'isola ovviamente dopo la Sardegna, forse sull'Isola dei Famosi. Graziano Mesina, speriamo di no, ma chi lo sa. Infine vi segnalo che c'è una polemica su Sting, il grande cantante prima dei Police, ora solista. Sting che ha fatto? È andato a fare un concerto a Tashkent in Uzbekistan, dove regna Karimov, presidente Islam Karimov, governa con pugno di ferro fin dagli ultimi anni dell'Unione Sovietica. Sting alla corte dell'ultimo dittatore, un'intera pagina della Stampa, una star impegnata canta il concerto privato a palazzo, dove c'era la figlia del presidente Karimov, la figlia che è la zarina dell'Uzbekistan, vice ministro degli esteri, stilista, ambasciatrice, pop star, imprenditrice, designer di gioielli, tutte mille cose che continuamente le vengono in mente, scrive Maria Corbi. Polemica per Sting, che non commenta, non dice neanche quanto è stato pagato per cantare alla corte di uno degli ultimi dittatori mondiali. Ci fermiamo qui con la rassegna stampa. Ricordo il sondaggio: state col giudice Mesiano, state col CSM che ha detto basta attacchi al giudice Mesiano, è quello dei calzini turchesi, quello della sentenza contro Fininvest, oppure no. Radio24.it per votare, nella home page trovate bianco o nero, votate lì o su ilsole24ore.com. Ci sentiamo dopo GR24.